nella prima Mishnah di questo capitolo, che è il quarto capitolo del trattato di Pesachim, avevamo studiato che ci sono delle cose che possono variare in base al minhag, all'uso specifico del posto. In quella prima Mishnah avevamo parlato del divieto di lavorare la vigilia di Pesach dopo il mezzogiorno, in modo tale che le persone si possano preparare bene per il Korban Pesach, o anche quando non c'è il Korban Pesach, comunque per tutto ciò che è necessario per il Seder. Ma esistono dei luoghi in cui si usa non lavorare già dalla mattina, ovvero tutto il giorno della vigilia di Pesach. E la Mishnah appunto diceva che in ogni luogo bisogna seguire l'usanza di quel luogo, e parlava della situazione in cui una persona va da un luogo a un altro luogo in cui c'è una differenza di usanze, come ci si deve comportare. Sulla scia di questa prima Mishnah torniamo a parlare di alcuni, nelle prossime tre Mishnayot, di alcuni concetti che ugualmente dipendono dall'usanza del luogo. Allora vediamo di cosa si tratta. Questa Mishnah, che in realtà esiste anche nel trattato di Avodah Zarah, parla di un divieto che è stato messo in atto dai Chachamim, una Gezerah, un decreto, secondo il quale è vietato in Eretz Israel vendere degli animali grossi, tipo tori, mucche, di questo tipo, a non ebrei. Ora vedremo più avanti nella Mishnah le motivazioni di questo decreto. Questa è la halakha, questo è il decreto che è stato messo in atto dai Chachamim. Ora, intorno a questa halakha, esiste una usanza secondo la quale in alcuni luoghi usano allargare questo decreto anche agli animali minuti, tipo le capre e le pecore, che anche queste non le vendono ai goyim. E la Mishnah appunto ci dice che questo dipende dall'usanza del luogo, questo aspetto qui, che non fa parte della istituzione originale, del decreto originale, del divieto originale, si chiama Gezerah, che letteralmente significa decreto, e quindi questo si segue l'usanza del luogo. Vediamo di cosa si tratta. Guardiamo il testo della Mishnah, che è Mishnah Gimel del capitolo Dalet, del quarto capitolo. Makom shenahagu limkor, il luogo in cui usano vendere behemah dakka, l'animale minuto, la bestia piccola, minuta, la goyim, ai non ebrei, allora mochrin, lì, in quel luogo in cui si usa fare, è appunto permesso farlo. Al contrario, mekom shenahagu shelo limkor, luoghi in cui si usa non vendere, come per allargare, diciamo, il divieto di cui parlavamo, allora en mochrin, in quel caso è obbligo seguire l'usanza del luogo e c'è appunto lo stesso divieto. Ora la Mishnah dice, ma qual è il problema? Qual è il divieto originale? Ubechol makom, in ogni luogo vige il divieto che en mochrin lahem behema gassa, che non gli si vende ai goyim una behemah gassa, un animale grosso, per esempio, come dicevo, tori, mucche, perché i chachamim hanno decretato che se una persona dovesse dalla vendita, se esiste la vendita, allora esiste facilmente anche il prestito o il noleggio. Qual è il problema del prestito o del noleggio dell'animale dell'ebreo che viene imprestato o noleggiato a un non ebreo, e che nella Torah è vietato che anche le nostre bestie lavorano di Shabbat? Quindi si potrebbe incorrere in questo divieto della Torah. I Chachamim, come abbiamo studiato anche Shabbat e in altri contesti, hanno l'obbligo di creare una siepe, cioè di salvaguardare il divieto stesso, a volte effettuando altri tipi di divieti intorno. Questo è un problema. Un altro problema, spiegano ulteriormente i commentatori, e se ne parla nella Gemara, nella Avodah Zarah, il trattato di Avodah Zarah, dove appunto appare anche questa Mishnah. Ci sono alcune Mishnayot che sono presenti in diversi trattati in base al contesto, che se dovesse essere effettuata questa vendita dell'animale grosso prima dello Shabbat e l'acquirente vuole fare la prova, perché queste bestie sono usate spesso anche per esempio per trasporto, no? Allora dice ok, mettiamo un certo peso per vedere come trasporta e come cammina sotto queste condizioni. Va bene, facciamo la prova. E il proprietario originale, il Yisrael, l'ebreo, cosa fa? Cerca di aiutare e di far spostare la bestia, magari la bestia è abituata alla sua voce o al suo modo di spingere o di toccare, eccetera. Allora, se è poco prima dello Shabbat, questo potrebbe andare avanti durante lo Shabbat, e qui c'è non solo il divieto di far lavorare la bestia di Shabbat, ma ulteriormente c'è un divieto che non si può Shabbat appunto spingere la propria bestia e farla andare, farla trasportare, che rientra nel divieto dello Shabbat. Allora, per questi diversi motivi, i maestri hanno vietato la vendita di Behemah Gassah, di animale grosso. Però l'animale minuto non l'hanno vietato, solamente che in alcuni luoghi le autorità locali hanno vietato e quindi questo si basa sull'usanza del luogo e in ogni luogo la Mishnah diceva bisogna rispettare quel uso. Parlando di questo, la Mishnah allarga ulteriormente un po' e ci dice appunto, Agalim usiachim, questo divieto di cui parlavamo, quello originale, il decreto vero e proprio, non l'usanza, include anche Agalim usiachim. Agalim sono agnelli, Vitelli. vitelli, scusatemi, non agnelli, i vitelli, cioè i Figlio piccoli sì. di questi animali grossi, anche se sono ancora piccoli, sono inclusi nel divieto, e anche siachim, che sono i piccoli degli asini. Inclusi per sicurezza, anche se non potrebbero lavorare. Sono inclusi, Anche se esatto, servissero perché? energia. Perché diventano grandi, Gas, certo. esatto. Oppure, secondo alcuni, perché qualcuno potrebbe non differenziare, come la Maritain, come quello che si vede, che magari uno vede che si vendono questi animali, cioè, beh, Ah. allora vuol dire che è permesso vendere la mucca, non differenziando la La grandezza o grandezza, l'età, ok? Bene, e quindi Agalim usiachim include sia anche i piccoli di questi animali grossi e anche Shleimin Ushvurim. Questi piccoli, sia che siano sani, che se Shleimin vuol dire interi, cioè sani, o Shvurim, che letteralmente significa rotti, ovvero che hanno qualche difetto o qualche problema fisico, che in teoria forse uno penserebbe forse non sono adatti a lavorare, quindi è permesso. No, anche lì è vietato. E qui ci sono due motivi di nuovo, perché è vietato anche quelli, tra virgolette, rotti o non sani. Uno perché potrebbero fare dei lavori più semplici, come per esempio tirare la macina, no, del mulino, oppure dall'altra parte, come dicevamo prima, che la persona che vede non sa differenziare questa cosa, se è sana o no, e quindi applica, gli sembra che è tutto permesso. Quindi per questo motivo o un altro sono inclusi anche quelli non sani. Anche se la Mishnah dice, Rabbi Yehuda matir b'shevura. Rabbi Yehuda invece è più facilitante su questo aspetto e dice se l'animale ha qualcosa di rotto, non è sano, dice secondo me non è adatto ad alcun tipo di vero lavoro e quindi è permesso, sarebbe permesso venderlo perché è probabile che chi lo acquista per il macello e non lo acquista per il lavoro. E di conseguenza, se è acquistato per il macello, allora neanche c'è il problema della visione, perché quanto dura il tempo del rischio, diciamo, di poter essere visto. Non lo vede da lui perché lo usa in cucina, lo usa per macello. Però l'Halakha non segue Rabbi Yehuda. Questa opinione minoritaria non rimane così l'Halakha, quindi il divieto include sì anche quelle non sane. Sì. Ma, parentesi, ma si può macellare di sabato, no? No, cosa c'entra con sabato? No, perché se uno prende, non si vende, non si Allora non dà. puoi vendere Passa poco niente. tempo. No, no, no, non si dà perché potrebbe lavorare di sabato. Ma il non ebreo potrebbe, se è per il macello, potrebbe macellarlo di sabato. Allora non puoi vendere niente. neanche una colomba, no? Quindi non ci concerne il Ok. fatto se è venduto al goy, il goy può macellare di sabato. Il goy non può macellare una bestia che però gli è noleggiata. Problema di lavoro è Questo quando è sì. noleggiato o quando è Perché poi imprestato. ritorna. Non puoi imprestare una bestia e quello lo porta al macello. No, Allora però non è un vabbè, ma prestito. Se, diciamo, è allora non è diritto, non tuo. siamo. Allora non è No, tuo. no, è lì è una questione di diritto. No, pensavo No, che. perché Però, perché diritto? non è suo e non lo può Oh, quello sto macellare. dicendo. Allora, se tu vendi a un non ebreo Sì. un animale per macello, la Ah, se lo vendita è vendi vendita, per. adesso appartiene a lui. Lui Ah, sì. Però c'è può un altro macellare di problema. sabato, non è La vendita è ebreo. per No, analogia al pensavo. possesso, no? La vendita, Avevo scusa. l'attenzione, scusa, No, avevo scusa tu, l'attenzione sul scusa. fatto del Vendita, vendita. sabato di non Sì, ma profanare quando una regola del appartiene sabato, quello mi ha all'ebreo ancora. portato fuori. Ma Quando riguarda appartiene l'ebreo, agli dice. Israel. Sì. Poi. Tony, dimmi, aspetta, c'è Ah, Tony. sì. È Prendiamo il una numeretto. siepe alta, questa di Eh? non vendere. È Una una siepe siepe. alta, sì. Perché la realtà si tende a conformarlo, a avvicinarlo al noleggio, al prestito, in cui l'animale potrebbe lavorare, Esatto. vietando il Vietando anche la prestito, vendita. sì. È tanto, è una. Sì, Io tutto è questo una non ho cosa mai di alta. noleggio di animali da che abbiamo cominciato. Io credo che stesse No, no, parlando della no. vendita. No. Solo Rav, Ok, io. scusate, solo che Scusa, chiarisco. non mi sono confuso. No, non c'è nessuna Scusa. confusione. Abbiamo detto che i Chachamim hanno vietato la La vendita vendita. dell'animale grosso Sì. per evitare che si arrivi ad una situazione di Tipo, noleggio o di esatto. prestito dove si Ah, sì. incorrerebbe in un Ecco, mi ero divieto. perso Quello questo. il divieto è quello. Mi Il ero perso divieto questo. originale è che Però il stai tuo vendendo. animale che Sì. appartiene a te lavora di Shabbat. Questo è il Esatto. divieto della Torah. Quindi La noleggio, no. siepe è e quindi non si vende perché si potrebbe arrivare a noleggiare e a imprestare. È Mi ero facile arrivare perso. dalla vendita al Sì, prestito, al noleggio. mi ero Questo è facile, non è perso così alto, questo. però la vendita, vietarla è alto. Questo Mi vale ero perso sempre questo passaggio. praticamente. Perché ad esempio con gli attrezzi, magari non c'entra sto qua, che non si possono noleggiare di Shabbat, però si possono dare un noleggio mensile, diciamo, per cui poi potremmo Vero? usare di Shabbat. Sì, ma Però questa è la bestia. è anche Sì. diverso un po', perché non è l'attrezzo che lavora, è Sì, la è la persona che bestia. lavora con l'attrezzo, Ok. o la bestia, no? Allora, se la bestia o la persona ovviamente non è tua, no? Non parliamo di un. Per cui la salvaguardia proprio dell'animale, perché è vietato che lavori di Shabbat. La salvaguardia non dell'animale, della No, persona che è la bestia, che a lui appartiene, dell'ebreo, la bestia che appartiene all'ebreo non può lavorare di Shabbat, cose che sono vietate fare di Shabbat. Prego, William. vendere a un goy un Sì, animale sì. malformato o che shavur, come Sì, dicevi. sì, sì. No, no, non dovrebbe essere anche vietato per il fatto che non è una cosa sana per la kashrut, io parlo. Ok, ma non stiamo parlando per macello qua. No, perché dice può anche andare a macellarlo A se chi? lo Al non vendi. ebreo? Il non ebreo non deve fare Quello kasher? glielo. Non deve mangiare kasher? Per Però per noi non noi non dovrebbe, sarebbe vuol considerato. dire che anche noi dobbiamo sbarazzarsi di quelli che non sono buoni. Ok, Business è business. non di No, quello. No, no, non di quello stiamo allora parlando nella può Mishnah. dire un No. altro. No, quello se tu È. lo compri dai al Non di questo cristo. stiamo parlando nella Mishnah. No. Lol ze umedaber, non su questo sta parlando. È un altro aspetto questo. È un altro aspetto. Ora, Questo di adesso questo è diventato. Non c'è questo l'ultima, diventato. signori, l'ultima frase della Mishnah è: Ben Beterà, c'è un maestro, figlio di Beterà, Ben Beterà, Matir Basus, permette la vendita del cavallo. Perché? Perché normalmente si usava il cavallo non per lavoro, ma per cosa si usava il cavallo? Trasporto. Per Per cavalcarlo, crono, sì, esatto. Per ok? cammina per trazione. Allora, qual è il problema? Secondo Ben Beterà, qui non c'è nessun rischio di incorrere in un Lavoro. divieto di Shabbat, perché cioè il divieto di fare l'obbligo di far riposare i nostri animali di Shabbat, qui non si incorrerebbe in questo divieto, perché visto che era usato per cavalcare, la regola è che ogni cosa vivente si autotrasporta. Cioè l'uomo, anche se si trova sul cavallo, comunque l'uomo deve tenersi. Ok? C'è un concetto che si chiama Hachai, il vivente, Nosè et Atzmo, si trasporta da solo. anche se si appoggia a qualcosa, comunque è diverso il peso di una persona viva e una persona morta. Perché? Perché una persona morta non si trasporta da solo. E una persona viva si trasporta in un certo senso da sola. Allora, di conseguenza, non è considerato come il divieto di cavalcare di Shabbat è un divieto rabbinico, non è un divieto biblico della Torah. Ok? Anche se c'è il dubbio che il cavallo possa anche servire come per lavoro. Esatto, allora questa è un'opinione minoritaria, mentre invece il Tana Kama, il maestro e la maggioranza dei maestri della Mishnah ritengono che invece è vietato anche quello. Ok, insomma, nel caso il cavallo viene usato per trainare un carretto. Allora sarebbe chiaramente vietato, però Ben Beteira sta dicendo andiamo secondo il maggiore uso. No, ma il carretto anche, no? Lì a quei tempi si usavano le carrozze, si usavano le bighe, quindi a questo punto poteva servire anche per trasporto personale, ma non direttamente sull'animale. Vero, vero. Non ho capito. Una persona sul cavallo si intende, ci potrebbe andare di sabato, non ho capito. Allora, se trasporta da solo non ho capito, scusa. Ok, adesso spiego. No, è bene, bisogna chiarire le cose. Qual è il problema dell'animale? Non c'è nessun problema. Il problema è che un ebreo è vietato che l'ebreo faccia lavorare il proprio animale di Shabbat. Come si definisce il lavoro? Secondo le melachot dello Shabbat. Ok? Il cavalcare un cavallo, un altro animale volendo, però quello di maggior uso per cavalcare il cavallo, non è una delle melachot. Come se camminassi da solo. Non rientra nelle 39 melachot il discorso di cavalcare. Sempre per il discorso simile alla siepe, i maestri hanno detto che non si cavalca di Shabbat per altri motivi, perché si potrebbe arrivare a puntini, puntini, adesso non entro in quel discorso. A sfiorare una di quelle melachot. A sfiorare altre melachot, o a entrare proprio nel divieto di altre melachot. Però è vietato quindi Miderabbanan, per un divieto rabbinico, non per un divieto biblico. Ok? Bene. Ora, visto che se una persona cavalca l'animale, perché non lo consideriamo un lavoro per l'animale che sta trasportando la persona, Todà? Perché non lo consideriamo? Perché esiste una regola che appunto citavo prima, Sheachai nose et atzmo. Un vivente è sempre in controllo di sé e in un certo senso si autotrasporta. Di conseguenza non mette tutto il peso morto, tra virgolette. Cosa è peso morto? Peso morto vuol dire che va tutto sulla cosa sulla quale è trasportato, no? Qui non va tutto. Questa è una regola che si applica anche ad altre cose, come tenere un bambino, che in certi casi può essere permesso, perché non è considerato trasporto, perché si autotrasporta e si autotiene in un certo senso. Questo è il senso di Achai Nosei Tatzmo, che forse è da approfondire. Però, in ogni caso, Rabbi Yehuda dice, visto che Achai Nosei Tatzmo, visto che la persona si autotrasporta, allora non è considerato che l'animale sta lavorando per lui, e quindi uno potrebbe vendere i cavalli ai goyim, perché anche se li noleggiasse o li desse in prestito, comunque non incorrerebbe in un divieto, perché cavalcare non è un divieto. Ma dice, è un problema di peso. Ok. Il Tana Kama dice, anche il cavallo è vietato, è incluso nel divieto. E l'Alaha appunto non segue Ben Beteira, non segue questa visione qui facilitante. Quindi? Sì. Di sabato uno potrebbe portare un bambino in braccio per strada, no? O è un fatto di essere più rigorosi o meno? In alcune situazioni potrebbe essere permesso, o in alcune maniere. Magari lo vediamo meglio quando studiamo, approfondiamo questo aspetto. Però volevo fare questo accenno, cioè esiste questo concetto di Chai Nosei et Atzmo anche in altri contesti alachici di Shabbat. Allora, prossima Mishnah, Mishnah Daled. Sempre sul discorso dell'usanza del luogo, ma questa volta torniamo a qualcosa che è legata a Pesach, almeno nella prima battuta della Mishnah. Di cosa si tratta? In generale esiste un divieto, esiste un obbligo che il Korban Pesach va mangiato arrostito, sul fuoco. E di conseguenza esiste un divieto dei Chachamim di non mangiare carne arrosto la sera di Pesach, quando non si sta facendo il Korban Pesach, perché? Per non fare qualcosa che è simile al Korban Pesach, perché è vietato mangiare un Korban fuori dal contesto in cui c'è l'obbligo di mangiarlo, e quindi non vogliamo creare qualcosa di simile a quel contesto, perché sembra che stiamo facendo mai sia un divieto. Ok? Però esistono dei luoghi in cui si usava, da prima di questo divieto, di mangiare l'arrosto la sera di Pesach fuori da Gerusalemme, non nel contesto del Korban Pesach. Prima che fosse messo in atto il divieto, esistevano questi luoghi, non è Roma. Ora, la Mishnah dice, Mekom shenagu lechol tzali, i luoghi in cui si usa mangiare arrosto, beleilei psachim, le sere di Pesach, che si intende la sera del Seder, ochlin, allora gli si lascia andare avanti con la loro usanza e mangiare arrosto, anche se può sembrare a qualcuno che stessero facendo il Korban Pesach. Però, mekom shenagu shelo lechol, là dove si usa di non mangiare, cioè che c'è stato il decreto dei Chachamim di non mangiare e quindi negli altri luoghi in cui non c'era l'usanza da prima non si può mangiare, bisogna seguire questa usanza di non mangiare. A Roma, qual era il problema di Roma? Che a Roma hanno voluto iniziare a mangiare l'arrosto la sera di Pesach dopo che è già stato fatto questo divieto. Che in un certo senso è diverso, è peggio tra virgolette, cioè la Mishnah è come se dicesse dove si usa già da prima mangiare non si deve cambiare l'usanza, ma dove non c'è usanza è vietato. A Roma è stata fatta l'usanza dopo. Allora i Chachamim hanno mandato a dire a Roma cosa state facendo, è vietato. Visto che c'era a Roma un personaggio importante, la Gemara parla di quale è l'importanza nel trattato di Pesachim, la Gemara ne parla. Qual era l'importanza di questa persona? Se era un'importanza politica, o era importante a livello economico, o era importante a livello di grande di Torah. La Gemara conclude che era un grande a livello di Torah. E i maestri hanno detto, se tu non fossi Todus, si chiamava Todus, se tu non fossi Todus ti avremmo scomunicato, perché hai iniziato questa usanza a Roma. Perché visto che sei Todus, allora potete andare avanti. E per da qui rimane anche oggi l'usanza di mangiare l'arrosto la sera di Pesach a Roma al Seder, l'abbacchio, no? Ok, però è diverso da quello che la diceva la Mishnah. Se non fosse stato per Todos sarebbe stato vietato, i Chachamim l'avrebbero vietato. I maestri di Gerusalemme hanno mandato a dire all'epoca. Ah, per questo motivo? Sì. Sì, sì, la Gemara ne parla nel trattato di Pesachim. No, le ciambellette. Stavo a fare la stessa cosa. Veniva anche lì. Le ciambellette non c'entrano con questo. No, ho capito, però veniva bene col fatto che le Israele è passata voce di non fare. Seconda indicazione di questa Mishnah, ora non riguarda più Pesach, riguarda Kippur. Sempre in base all'usanza del luogo, Mekom Shenahagu. Guardiamo il testo. Ultima parola della prima riga della Mishnah Dalet sulle nostre fotocopie. Mekom Shenahagu lehadlik etaner belelei Yom Kippurim. Luogo in cui si usa accendere il lume la sera di Kippur, madlikin, allora in quei luoghi bisogna accenderlo. Mentre invece, luogo in cui non si accende, mekom shenagu, cioè si usa non accendere, shelo leadlik, en madlikin, in quei luoghi è vietato accendere. In altre parole, la sera di venerdì sera, di Shabbat, la sera dei Moadim, c'è un obbligo di accendere il lume, perché rientra nel discorso di Oneg Shabbat, che non è possibile trarre godimento dalla sera dello Shabbat a casa se non c'è una luce accesa. Questa è la base dell'obbligo di accendere il lume di Shabbat. Ok? Però la sera di Kippur la cosa dipende dal minag. È chiaro che non serve stare a tavola la sera di Kippur. Quindi, da un certo punto di vista, non serve la candela. Da un altro punto di vista, esistono invece chi dice che bisogna sì accendere in base al minag. E questo è legato anche al rapporto con la propria moglie. Perché? Perché entrambi, chi dice che si deve accendere, chi dice che non si deve accendere, entrambi lo dicono per lo stesso motivo. È permesso il rapporto coniugale la sera di Kippur? No, è uno dei 5 divieti della sera di Kippur. Ora, cosa succede? La domanda è, quando noi pensiamo candele di Shabbat, pensiamo nella sala da pranzo, però dobbiamo anche pensare che in molte situazioni c'era un'unica stanza, che era sia il luogo in cui si mangiava o il luogo in cui si andava a letto, e quindi accendere il lume vuol dire anche nel luogo in cui marito e moglie vanno a dormire. Allora, in alcuni luoghi ritenevano che se il lume è acceso, questo può indurre la persona a stare con sua moglie, perché la vede. In altri luoghi dicevano no, se la luce è spenta, questo lo induce, perché la halakha dice che il rapporto coniugale va fatto a luci spente. Allora, se luce spenta è portato a stare con sua moglie, invece se è accesa si ricorda che non lo deve fare. Allora, in base a questa differenza, ci sono diverse usanze. La Mishnah dice che l'usanza del luogo va rispettata per ciò che riguarda accendere il lume di Kippur. Oggi tutti usano accendere le candele di Kippur, e c'è la Berakha, come per qualsiasi Moed. Però all'epoca c'era una differenza di usanza. Umadlikin, per quanto riguarda però l'accensione dei lumi di Kippur, bevatei knesiot u bevatei midrashot, nelle case di studio e nelle case di preghiera, cioè nei templi, per onore del giorno, per rispetto, come un giorno importante che si accendono più lumi, questo lo si fa non solo di Shabbat, non solo di Kippur, ma anche, non solo di Moed, ma anche di Kippur. Su questo non c'è differenza d'usanza. In luogo pubblico, in altre parole, non c'è differenza, si accende sì. E anche uvim vo'ota efalim valgabei cholim, anche dove serve luce, cioè vicoli afelim, vicoli oscuri, dove serve luce per motivi di sicurezza, e al gabei hacholim, oppure sopra il letto di un malato. In altre parole, dove c'è un'esigenza che ci sia la luce, chiaramente è permesso accendere la luce prima di Kippur, in modo tale che ci sia la luce. O qualsiasi luogo in cui non c'è il letto matrimoniale, anche lì non c'è problema. Ecco perché oggi che accendiamo le luci in camera da pranzo, sala da pranzo, tutti accendono le luci di Kippur, i lumi di Kippur. Allora concludiamo qui e poi proseguiremo la prossima volta con altre differenze di usanze che riguardano Tisha B'Av. E di nuovo torneremo alla vigilia di Pesach. Buona giornata a tutti!